penso troppo spesso che sto perso, immerso nell'universo. Cresco e ripenso quando c'ho di te. Oh oh oh, mi dicevi che io penso troppo spesso e che sto perso, immerso nell'universo. Sarò migliore, almeno lo spero. Da ti prego non dirti ancora di no, no. Io sarò almeno lo spero. Da ti prego non dirti ancora di no. Io sarò almeno lo spero. Da ti prego non dirti ancora di no. Avevamo in testa big dreams e big blunt. Nelle tasche volevo andare a Switch con chi sta distante. Sembrava che nessuno fosse vero, vero, vero. Eppure io con te c'ero, c'ero, c'ero sempre. Vanno a fanculo la gente, quelle esplodono le orecchie. Dice non sente ugualmente. Per il mio bene li ho lasciati andare. Credo in Dio, baby, non ho sempre cazzate. Dio me ne è fotto, non ho drama nel mio plan. Dimmi cosa ho risolto a restare qua a guardare di sotto. Viviamo troppo poco per bla la la la. Tirare come posso crederti se fai bla. Se non sei neanche qua, se dici più fai ya. Tu sei la motivazione per cui io penso troppo spesso che sto perso, immerso nell'universo. Cresco e ripenso quando c'ho di te. Oh oh oh, mi dicevi che io penso troppo spesso e che sto perso, immerso nell'universo. Sarò migliore, almeno lo spero. Da ti prego non dirti ancora di no, no. Io sarò almeno lo spero. Da ti prego non dirti ancora di no. Io sarò almeno lo spero. Da ti prego non dirti ancora di no. Con la strada era più buia, non c'erano anime accese. Ti ci perdevi nel nulla e lo pagavi le tue spese. Come fosse colpa tua, ma non lo è. Forse potresti credere così, ma sono stanco di sto cadere dentro G. The Wii, the X, the Queen, non sanno che vuol dire star free soltanto quando la giri. Giuro non sto capando, mi sta mancando l'aria qui. Resto con qualche danno, ma so che tanto manca chi capisce cosa intendo quando dico che penso troppo spesso che sto perso, immerso nell'universo. Cresco e ripenso quando c'ho di te. Mi dicevi che io penso troppo spesso e che sto perso, immerso nell'universo. Sarò migliore, almeno lo spero. Da ti prego non dirti ancora di no.